cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao Gianluca, sono Giusy di Cantù. Forse mi puoi regalare un libro infame, come lo chiami tu? Grazie. Ho bisogno di un libro infame come pronto soccorso per titillare le passioni sopite di mia moglie. Grazie. Che regalate dei libri indecenti. Io sarei interessata a riceverli. Desidero avere quanti più libri possibili per me e per i miei 3 piccolissimi bambini. Voglio dei libri perché non ho il tempo di andare in libreria a comprarli. Tutte scuse. Naturalmente ancora qualcuno deve completare la lista dei regali inutili e quindi spera nel libro infame, l'ultimo tassello che manca nella lista delle sconcezze. Oggi può essere considerata la trasmissione più attesa di tutto l'anno, anche quella più disimpegnata, quella che ci richiede molto sforzo di preparazione, ma che ci dà maggiore soddisfazione. Oggi ci liberiamo dei libri infami che ci mandano le case editrici a scopo recensione. Ne abbiamo talmente tanti che generosamente pensiamo di contribuire all'affrancamento dell'ignoranza di questo paese regalandoli. Ho la scrivania colma di fronte a me di fantastici libri. Tutti libri nuovissimi, appena usciti dalle case editrici. Soltanto un paio sono un po' ingialliti, ma sono quelli che avevamo lasciato per tenere alta la serranda rotta, e quindi c'è un alone giallo. Non è nulla di inquietante, nulla di irriverente, è solamente l'alone giallo del sole che ha turbato il nitore della carta di questi libri. Diciamo che un libro giallo vale 2, vi diamo 2 libri gialli. Cosa? Libri gialli non in senso di libri di thriller, gialli in quanto ingialliti, in quanto un po' schifosini, con le pagine leggermente appiccicate, ma questo non importa. Questa mattina vi diamo un tema per poter meritare l'acquisizione del libro infame. Ho davanti a me almeno 30-40 libri infami, non farò in tempo a darli tutti, forse alla fine agli ultimi, se saranno bravi, ne darò a bizzeffe. Voglio uscire da qua leggero, libero, non avere più libri, perlomeno di quelli che ho destinato al regalo dei miei ascoltatori. Oggi tutti voi avrete rimpolpato le masse umane che stanno riempendo le strade, dei ritardatari, dei regalisti dell'ultima ora, quelli che non hanno avuto tempo, non hanno avuto voglia, che si sono accorti all'ultimo momento che hanno persone da soddisfare con un regalo, perché magari gli è arrivata a casa la cassettina con lo spumantino svanito, con il panettoncino riscaldato, e quindi bisogna comunque fare un regalo anche a quella persona che noi avevamo dimenticato che esistesse. Quindi questa mattina state ottenebrando una giornata, tutto sommato una giornata bella, perché i giornali sono chiusi, non si lavora, alcuni poveri Sherpa come noi ancora fanno la radio in diretta, ma poi ce ne andremo anche noi. Finalmente questa sera comincia la mestizia, dover affrontare il rituale della cena natalizia, ma questo è un altro discorso. Beh, oggi quale regalo infame avete fatto alle persone che avete vicino? Di cosa vi vergognate? E soprattutto, nella vostra storia legata alle ricorrenze natalizie, quali sono i regali più infami che vi hanno fatto? Chi veramente toccherà le sublimi vette dell'infamia del regalo ricevuto o del regalo naturalmente attribuito a un'altra persona, avrà il regalo un libro infame. Guardate che il prezzo medio di un libro oggi è 16-18 euro. Vi regalo veramente un valore vero, un valore concreto. Non sono i soliti buoni omaggio, vai nella spa, ti regalo un percorso di benessere, poi quando uno va lì ti danno una secchiata d'acqua calda addosso e ti rimandano a casa. 800 24 00 24, sfruttate il giorno in cui veramente mi sento portatore di una radio di servizio e vincete il libro infame. Io ho comprato a mia zia per regalo di Natale una merendina gigante, una Kinder Brioche finta, dentro fatta di spugna. Beh, io ho regalato a un amico che non fuma un narghilè. Allora, un portalumini da muro, quindi era un tubo arrotolato su se stesso con dei piccoli supporti con i lumini. L'altra era una fontanella, quel cilindro da cui scaturisce fuori l'acqua in cima che fa girare quella pallina, no? Che continua a farla girare. Christmas, Christmas time is here. 800 24 00 24, abbiamo dato qualche timido assaggio di cosa intendiamo per regalo infame. È regalo inutile, regalo che non serve a niente. La sconcezza che mai vorremmo avere dentro casa nostra, quella che noi buttiamo in cantina, buttiamo in soffitta o buttiamo tale quale dentro il cassonetto dell'immondizia. Questa mattina non entro nel dettaglio perché farei soffrire alcuni colleghi. Ho assistito al passaggio di mano di un regalo infame. Una persona ricevette un regalo utilissimo, era una cosa che non posso dire, sennò mi scopro, però è qualcosa che ha a che fare con il benessere, con la salute, l'ha immediatamente dato a un'altra signora che dice: oh, che bello, è tutta la vita che lo sogno, ma in realtà poi mi ha confessato che ha giocato sul effetto pietistico, dice: poverina, una mamma, diamogli questo oggetto per i suoi bambini, ma in realtà lo deve dare a una vecchia zia che a sua volta gli ha regalato, non so, un salame soffritto di qualche anno fa con i topi che ci camminano dentro. Quindi vedete, ho visto il creare la mitopoiesi del regalo infame. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Il toga il viva voce, se no siete troppi. Allora, io do un libro infame in cambio di una dichiarazione di regalo infame. Non accetto digressioni. Il mio regalo infame è che non faccio regali a nessuno. No, questa è una paraculata, mi dispiace. Bocciato, via, via Enrico. No, no, è troppo facile. No, uno si deve sforzare almeno a dire un regalo. Non faccio nessun regalo. È troppo bravo. Uno non fa nessun regalo, è un asociale, uno vive recluso, chiuso a casa propria, non riceve nemmeno regali. Quindi è fuori dalla catena delle scelleratezze. Io voglio persone che affondino fino ai gomiti, fino alle ginocchia, a piedi nudi, dentro la scelleratezza dello abominio di dover fare per forza un regalo. Scarto le due bottiglie e scopro che sono due splendide bottiglie di Chinotto, di una marca che io stimo molto. Nel pacco voluminoso mi aspettavo un mattone, invece apro il pacco e mi trovo tante piccole bottiglie di Chinotto che tutte insieme fanno ben oltre 30 litri di Chinotto. Praticamente io il regalo che subisco ogni anno e che poi a mia volta riciclo è il libro che ogni anno sporna Henry De Luca. È un contenitore di plastica color verde pisello della misura di un pacchetto di sigarette con due gancetti che si aggancia alla tazza della colazione al mattino e dove ci possono stare dentro due o tre biscotti. Ecco, vi rendete conto per cosa siamo passati e non riuscite a essere in questo 2014 all'altezza dei precedenti, delle precedenti dichiarazioni di infamità? Mi sembra singolare. Vediamo se Marcello riesce a darmi qualche palpito. 800240024, nella vostra vita avrete ricevuto qualcosa di infame che vi ha fatto schifo, che avete mascherato con il sorriso imbarazzato? Marcello. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Niente, il regalo che di solito ricevo ogni anno e che non mi piace per nulla sono quelle bottiglione di grappa che vengono regalate sempre da un punto di vista anche istituzionale, perché sono un amministratore locale e ogni volta mi trovo con tutte queste grappe che non sopporto perché sono a stento. Quindi diciamo la mazzetta all'assessore è semplicemente dargli un boccione di grappa? Sì. Immagino che con quella lo mettono tranquillo, magari passa. Lo fanno ubriacare, magari così non si occupa poi più di tanto delle cose. Ma è grappaccia di infimo ordine, probabilmente è alcol metilico. Devo dire la verità, sono grappe anche di un certo livello, magari anche i bottiglioni con il logo aziendale di qualche azienda che si ricorda che le manda un bottiglione di grappa, ma cosa ne fate? Ne fate il bidet, oltre a berla, perché con tutta questa grappa cosa ci si fa? Con tutta questa grappa di solito la si porta quando ci sono le serate in montagna con gli amici, la si mette lì sperando che qualcuno la beva, ma non la vuole nessuno. Se non hanno i loghi la si regala. Vabbè, quindi diciamo, cioè, la grappa si invecchierà sempre di più perché passa di mano in mano e quindi certo. Naturalmente. Vabbè, mi sembra buono come regalo infame, guardi. Allora, all'ascoltatore Marcello, che ha inaugurato la lista dei regali infami 2014, dichiarando che riceve in quanto amministratore locale bottiglioni di grappa da parte di concittadini che sperano con quello di fargli chiudere un occhio su alcune loro pratiche, regalo un libro infame veramente bello e meraviglioso. È un romanzo Bompiani del valore di 18,90 euro, quindi un bel librettino. Ancora dentro c'è la lettera dell'autore che mi dice: caro Gianluca, spero che parlerai del mio libro, anzi del traduttore. Il titolo è suggestivo, che le fa pensare che esistono altri piaceri oltre a quello della grappa. Il titolo è La casa dei buchi, l'autore Nicholson Baker, l'autore anche di Vox e La pausa, che l'avrà letto, romanzo Bompiani, quindi Marcello, primo libro infame attribuito. Mario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora vada, che fa in tempo anche lei a beccarsi un libretto. Allora, io avevo appena acquistato... La casa dei buchi non è già dato, però ci sarà sempre qualcosa per lei, vediamo. C'è di peggio, va bene. No. Io ho appena acquistato un'auto nuova e una settimana dopo, in occasione proprio del Natale, mio zio, assolutamente all'insaputa di questa mia auto nuova, mi ha regalato dei cavetti per la batteria, che oggettivamente non sono belli né a Natale né in qualsiasi altra circostanza, ma tantomeno nell'occasione di aver comprato. Cioè, porta anche sfiga, dice, l'auto nuova porta vuol dire anche sfiga, è quello che ho detto a chi mi ha risposto prima, insomma, era ben augurante, però. Ma visto che suo zio, bene o male, le attribuisce delle possibili defaillance, regalo un libro infame che sembra fatto apposta per lei, è della serie ingiallita, quindi ha diritto a averne due. A Mario, il cui infame zio regalò dei cavetti per dargli la carica perché pensa che sia completamente scarico, do un libro fondamentale, è un manuale sulla disfunzione erettile di Giovanni Carrada e Emanuele Iannini, La scienza dell'amore, con prefazione di Piero Angela, tutto quello che è stato scoperto sulla sessualità e che nessuno aveva mai sospettato prima. Siccome è un libro ingiallito, quindi è diciamo deteriorato, non può riappiccicarlo, le regalo anche in più il libro Inconscio ladro, Malefatte degli psicanalisti, Elisabetta Ambrosi, La lepre edizione. È un libro fantastico, quindi con uno si tira giù e con l'altro si tira su, va benissimo. Io e mia moglie abbiamo pensato di fare un bellissimo regalo a mio figlio Antonio. Allora gli abbiamo regalato un spazzolino per pulire il WC. Senta, io all'indomani della caduta del muro di Berlino, in una cena con dei numerosi ospiti, avevo preparato per ognuno delle scatolette con all'interno dei cocci che avevo recuperato da un lavoro edile che avevo fatto, con delle bellissime descrizioni in inglese e in tedesco che descrivevano appunto che erano pezzi originali del muro di Berlino, e io le ho regalato a loro tutti quanti quella sera e credo che ce l'abbiano ancora. Due fantastiche offerte di regali infami che meritano di essere premiate, una la premierò in modo particolare. Il primo è David. David, buongiorno. Ciao Gianluca. Dai, perché non chiamano donne questa mattina? Sono tutte lì a fare la pasta per i tortellini. Sì, è vero, infatti pure mia moglie sta fa pasta e fagioli oggi. Pasta e fagioli per come? Il giorno di vigilia pasta e fagioli? No, a pranzo per non mangiare cose strane, no? Così vi riscaldate questa sera nella notte di Natale? Sì, più o meno. Comunque, attenzione, con tutte quelle candele potrebbero esserci dei problemi. No, lo dico perché lei lo sa che la detonazione è dietro l'angolo. Allora, Davide, che regalo infame hai ricevuto? Allora, innanzitutto io faccio ogni anno come regalo le mie fotografie. Sì, ma scusi, ma la gente che ci fa con le sue foto? No, è perché, come che ci fa? Io, per esempio, sono appena tornato, sono in quelle macchinette per strada e faccio una serie di piccole fotografie, le incornicio e le regalo. Con la sua faccia? Sì, con la mia faccia, faccio espressioni. Perché ha titubato quando ha detto con la sua faccia? Una con l'occhio storto, una eccetera eccetera. Ma perché pensa che abbia un valore? Non ha nessun valore, è uno schifo, una schifezza per sfregio. Infatti è una grande bella schifezza, però penso che quest'anno sta partendo il sabotaggio, penso che tutti mi faranno la loro foto a me. Guardi, voglio veramente farle una cosa che non ho mai fatto per nessuno, trovo veramente nella lista dei regali infami, questo è il peggiore, perché c'è un narcisismo dietro esasperato, la sua foto, la gente si ci fa con la sua foto, la incornicia pure e pensa pure se è un regalo, quindi merita oltre quello che normalmente do in questa occasione, lo faccio anche per invogliare gli altri. Annunzio che si è dimostrato veramente formidabile nel studiare l'infamità del regalo. Regala la sua foto a gente che probabilmente ha schifo della sua stessa faccia. Faccio un triplo regalo infame. Regalo un... Sì, lo so, in tonti mi dice no, è troppo. Mi voglio rovinare. Vi regalo la trilogia di Giorgio Faletti. Il compianto Giorgio Faletti scrisse molti libri. Ne ho tre in mano. Ho Pochi inutili nascondigli, racconti, Baldini Castoldi editore. Ho Io uccido, il libro che lo rese maggiormente noto, da comico a famoso scrittore, sempre Baldini Castoldi, e Fuori da un evidente destino. Ha tre libri di Faletti, il prezzo complessivo, glielo dico subito quanto le regalo in questo momento, ma le regalerò qualcosa come 60-70 euro, consideri che l'autore ormai è postumo, quindi ha maggior valore. Andiamo avanti, Riccardo. Buongiorno e approfitto per farvi i miei migliori auguri di Buon Natale. Sì. Brevemente, il peggior regalo che credo di aver ricevuto in vita mia, faccio il direttore d'albergo e sono un discreto collezionista di whisky con bottiglie anche molto importanti che vengono aperte quando si trova la coppia, come tutti i collezionisti. Comunque vedo che i superalcolici vanno tantissimo come regalo infame. Ma sì, in questi periodi comunque, anche se beviamo un po', dimentichiamo certe cose. Sì, la gente ormai tira cocaina, che ci fa più con i superalcolici, che non si può regalare senza rischiare. Assolutamente. E questa signora altolocata della zona dove abito, che non ripeto per non che non possa essere individuata, questa signora, ma di una famiglia importante, ha avuto il coraggio di regalare una bottiglia di whisky che era stata aperta, consumata, non credo rabboccata, comunque sicuramente no, inferiore. Basta, normalmente si rabbocca con la pipì per fare proprio un regalo infame, se uno vuole. No, ma aspetti, risigillata con un sigillo che non so dove andò a prendere, di una marca simile che non era quella. Guardi, mi sembra l'apice, siccome dobbiamo dare le informazioni del traffico, diamo l'annuncio, le do un libro infame che veramente segnerà la sua vita. Bene. Parta la sigla con tamburi, ecco. Allora, a Riccardo, che ottenne come regalo infame la bottiglia di whisky rimboccata con innominabili liquidi, regalo un libro veramente unico che merita sicuramente di essere tramandato. È il libro di Pino Nazio, Il bambino che sognava i cavalli, editore Sovera Edizioni, è l'autore che ha scritto moltissimo sul caso Orlandi. Questo è il libro, una sua storia fanciullesca, Pinuccio che andava a cavallo, ma in più dentro c'è una lettera autografa di Pino che dice: caro Gianluca, ho avuto molti apprezzamenti alla trasmissione sull'Orlandi, ti invio il precedente libro, Il bambino che sognava i cavalli, per farla sognare lo regalo al nostro ascoltatore. Melog, cronache meridiane. Ciao Gianluca, io di libri vorrei averne addirittura 4, se possibile. Uno per la mia piccola di 10 anni, che così scopre che c'è qualcosa di peggio di Geronimo Stilton. Uno per la mia grande di 13, che ha appena fatto una tesi dell'esame di terza media. 800024, questa mattina diamo i libri infami, mi ha chiamato la solita vestale che punta il ditino, lei sbaglia a dire che chi non fa regali è asociale, ma che c'entra, lei è molto superficiale, scrive meglio degli altri, si vergogni nel trattare la gente male, tutto scritto in maiuscola, io non faccio regali non so da quanti decenni, li faccio soltanto ai figli, e se ricevo un regalo mi arrabbio, infatti nessuno mi fa più regali, poi guardo con la faccia come dire: ma sta schifezza, perché me l'hai portata che non so dove buttarla? Quindi figuriamoci, e mi considero una sociale, quindi che vuole? Qual è il problema? E quale problema si pone? Nicoletti, quest'anno regalerò 2 pacchi di fusilli alla canapa, 2 amiche distinte. Chissà, non sorridono più. Buon Natale, fusilli alla canapa, roba di stravolgimento, penso. Poi c'è un ascoltatore, se riusciamo a prenderlo al telefono, che ha un fantastico regalo che è regalato alla sua ex e che quando guida lo guarderà. Lo chiamiamo questo? Dai, intanto ti fa il moralista sempre. Nunzio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, perché roba un po' salace. No, non lo vuol chiamare, allora lo dico. Un signore ha avuto un volante con fallo attaccato regalato alla mia ex, così quando guida prende la giusta direzione. Leo da Torino. Beh, se non dà il numero, vabbè, devi telefonare, non è giusto. Nunzio, buongiorno. Sì, buongiorno. Doppia infamità. No, io, allora, intanto un po' mi vergogno per quello che ho fatto. Comunque... Però lo dica, si sentirà meglio poi, consideri questa catarsi necessaria, no, allora, per lo spirito di Natale. Mancava circa una settimana al compleanno di mio figlio. Conviva, non ricordo se 19 o 20 anni. 20 anni, sì, quindi allora, candino. Una sera, buttando dell'immondizia, ho trovato un simpatico robot che lui aveva desiderato da piccolino. E insomma, l'ho portato a casa, l'ho pulito, l'ho sistemato e gliel'abbiamo regalato per il scontato. Ma lei è un povero? L'ha fatto perché è povero o perché non c'era proprio voglia di andare a comprare? No, perché a quei tempi, perché è un robot che era uscito negli anni 80, non avevamo possibilità di comprarlo, insomma. Ma adesso non si poteva più trovare, o perlomeno l'avrei dovuto cercare su internet. Era quello che parlava col telecomando? Sì, quello che è Emilio. Emilio, lo so, lo regalerei anche ai miei figli, ma i figli avevano paura allora, quindi durò pochissimo, che erano spaventatissimi. E quindi l'abbiamo regalato. Però era bellissimo, camminava però... con la luce. Sì, però lui sa che l'abbiamo. Ma dove l'ha preso? Che io il mio Emilio lo buttai via, mi ricordo. Io lo buttai via perché i miei figli si spaventavano. No, non credo che sia il suo. Sì, era quello bianco, grosso, di plastica. Quello bianco, sì. Era terrificante. C'aveva le luci sopra, Emilio parlava, poteva prendere. Adesso mio figlio ce l'ha conservato nella sua stanza. Sì, ma lei gli ha dato inzaccherato di schifezze, di umido, di qualche. No, l'abbiamo ripulito, disinfettato, insomma. Vabbè, è una cosa micragnosa. Vabbè, se lo merita, perché fa veramente schifo l'idea di regalare una cosa presa dal cassonetto. All'ascoltatore Nunzio, che non pago di aver negato il robottino desiderato Emilio dal figlio negli anni Ottanta e per micragna non averglielo comprato, che alla fine costava 50.000 lire, non era che fosse una cosa che non si poteva regalare, facendo sacrifici in un anno chiunque avrebbe potuto regalare Emilio, lui ha preso uno insaccherato di schifezze da un cassonetto, gli ha dato una pulita con il Via Cal e l'ha regalato al figlio, che poveraccio a 20 anni finge di essere contento. Quindi, sapendo che questo è il collante di molte famiglie, regalo il libro Strade Blu Mondadori, Elisabetta Gualmini, Le mamme ce la fanno. E per questo il mio editore mi caccerà, per questo libro mi aveva dato, dice, parla di questo libro, è tanto brava. E io lo regalo al nostro ascoltatore, che se lo godrà molto di più. Carla, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Io anni fa ho ricevuto... No Carla, mi dice che questa mattina non ha chiamato nemmeno una donna, lei è la prima. Cosa fanno le italiane questa mattina? Allora, io ho ricevuto questo. Sì, ma cosa fanno le italiane questa mattina di vigilia? Mi spieghi? Perché non chiamano la radio? Non lo so, io l'ascolto sempre, vorrei chiamarla ogni volta, ma sarebbe troppo. E volevo sentirmela dire questa frase tanto tempo fa. Va bene, allora... Allora, domenica la ringrazio per il treno va, la ringrazio tanto. Comunque io anni fa ho ricevuto da un gruppo di amici maschi, amici di mio marito, invitati a cena, un'enorme brocca tipo Faenza, per acqua o vino, invece del beccuccio aveva un'enorme pene in erezione. Sono rimasta allucinata. Ma per berci a bocca, come funzionava questa cosa? Qual era il senso degli amici di suo marito? Allora, io ho detto a mio marito poi in privato, guarda che questi non hanno fatto un regalo a me, stanno dicendo qualcosa a te. Sottintendo, perché suo marito era, diciamo, era molto poco dotato per questo, forse. Girava questa voce. Veramente dei Vabbè, pazienza, uno può anche amare un pipì in bottone, mica c'è questo problema. Guardi, merita veramente un regalo per questa. Bravo, grazie. Ma ce l'ha ancora la brocca? Mi devo ancora riprendere da quello shock. Ma ce l'ha ancora la brocca? No, l'ho data a mio marito, gli ho detto tu la porti nell'ufficio, te la tieni sul tuo tavolo. Beh, il marito era diciamo il simulacro della sua vergogna, capito? Era un confronto, soprattutto creava lei l'illusione di orizzonti che non aveva sotto mano in famiglia, quindi le creava un'aspettativa sproporzionata, quindi hanno creato una frattura irrecuperabile nel suo matrimonio e quindi merita un libro infame. Trovo che il titolo di questo libro sia molto adatto alla tragedia coniugale della nostra ascoltatrice che, avendo un marito molto poco dotato, ha dovuto anche subire il ludibrio e lo scherno degli amici che gli hanno regalato una brocca con un grosso pisellone in ceramica dicendo guarda un po' cosa c'è in giro e tuo marito non ce l'ha. Un segreto che non guardo ma che sta al centro del cortile di Chiara Dotta, editrice Liberaria, editore sconosciuto, cioè non fra i più conosciuti, ma un libro senz'altro denso che lei apprezzerà. Serena. Salve, buongiorno. Vede le tragedie che si nascondono dietro un regalo semplice. Sì, io ho ricevuto qualche anno fa, insegnavo inglese, quindi questo gruppetto di genitori ha pensato di farmi cosa gradita nel regalarmi una bella teiera. Una bella grande teiera in ceramica lucidissima a forma di Babbo Natale. La cosa un po' tragica è che ovviamente per mettere il tè dentro bisognava togliere la parte superiore che era la testa del povero Babbo Natale. E la cosa ancora più tragica è che ho cercato di liberarmene a quelle feste di regalo dedicate al regalo riciclato, e nessuno l'ha preso. Per motivi diversi non sono riuscita ancora a partecipare e adesso sto pensando alla fine di tenermelo questo Babbo Natale. Vabbè, a Natale dice, questi giorni ha il suo senso, fa il tè sotto Natale col Babbo Natale. Certo, che a Ferragosto è un po' fuori tempo. Non può nemmeno metterla nella seconda casa. Vabbè, dai, facciamogli un regalino. Grazie. Allora, un libro che la riporterà su quelli che sono i drammatici temi che in realtà dovrebbero cogliere gli amici della signora piuttosto che calarle teiere con Babbo Natale, di Corrado De Rosa, Laura Galessi, con prefazione del presidente Pietro Grasso, Sperling e Kupfer, editore, Mafia dalle gare, pazzi sanguinari, matti per convenienza, finte perizie, vere malattie, è un libro su la simulazione della follia da parte dei mafiosi quando vogliono avere dei vantaggi carcerari, mi sembra formidabile. Facciamo in tempo a farne un altro? Sì, ne facciamo un altro, avanti. Giacomo? Sì. Avanti. Sì, di Nicoletti, buongiorno a tutti. Veloce Giacomo, sennò la devo tagliare. Sì, allora il regalo più bastardo l'ho fatto io, in compagnia nostra abbiamo un amico sborrone, questo sa tutto. Ho fatto un viaggio di lavoro in Puglia e gli ho detto che gli portavo 20 litri di olio pugliese da casolare. E invece? Quando sono tornato a Verona ho preso niente, ha vinto, io fatto via regalo lo stesso. È andato avanti un anno a ringraziare. Ho capito, dell'olio pugliese che non era olio pugliese. All'ascoltatore dell'olio pugliese io faccio così, viaggio in camper alla scoperta dell'Italia cambia. Arrivederci, buon Natale, ci sentiamo l'anno nuovo.